Questo è un file di prova per vedere come funziona la pubblicazione dei contenuti multimediali su ourmedia.org. Fine della registrazione.